24 mattino. 8 e 18 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. E naturalmente è il momento di Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi il tema è di quelli abbastanza popolari, molto popolari. Esatto. Liberalizzazioni, tra l'altro, Sì, il settore farmaceutico. Esatto, questo, un tema che abbiamo già toccato, soldi e dintorni, e che non manca di scatenare anche numerosi messaggi, quindi ti avviso già se li dovessi vedere. Esatto, poi magari ce li puoi anche raccontare in diretta. Grazie molte. Allora, perché parliamo di nuovo di farmaci stamattina? Perché dopo l'esperimento ben riuscito dell'acido acetilsalicilico, e quindi l'aspirina, il principio attivo dell'aspirina, è stato lanciato ieri il secondo farmaco a marchio Coop, che sarà venduto negli 88 centri Coop Salute sparsi in tutta Italia. Buongiorno Vincenzo Tassinari, presidente consiglio di gestione di Coop Italia, ormai tra l'altro un affezionato dei soldi e dintorni, perché se non sbaglio è già la seconda o la terza volta che la invitiamo. Sì, grazie a lei, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sono ben felice di poter parlare. Vabbè, di iniziative curiose, interessanti, insieme anche utili per i consumatori, ne fate diverse, ci piace quindi che i consumatori ne vengano a conoscenza. Qual è il secondo farmaco che metterete in commercio con il marchio Coop, dottor Tassinari? È il paracetamolo, quello più diffuso. La tachipirina. La tachipirina, non possiamo dirlo troppo esattamente, però insomma è l'equivalente della tachipirina. È il principio attivo più diffuso in Italia. E usciremo al 15 di giugno con un prezzo di vendita su €1,50 rispetto a quello che si vende in farmacia, che sono €4. Che si può trovare insomma anche a €4, anche se poi già qua immagino che arriverà qualche contestazione, insomma si può trovare anche a prezzo inferiore se la farmacia pratica uno sconto. Comunque diciamo che il prezzo massimo che, che si trova in farmacia è a questo, quindi diciamo che abbiamo un prezzo inferiore di circa il 60% in meno rispetto a quello venduto con il canale tradizionale. Dottor Tassinari, c'era una domanda che le voleva fare Alessio Maurizi. Sì, perché parlando di liberalizzazione dei farmaci, io ho letto, non sono stato mai negli Stati Uniti, ma so che lì i farmaci si vendono a scatole, a pacchetti con molte centinaia forse di pillole, pilloline, insomma, per esempio. E costano poco anche per questo. Le vostre invece quante sono? Che confezioni sono? Sono maxi o no? Sono confezioni di 20 compresse, però vorrei confutare un po' questa osservazione, nel senso che quando siamo usciti col primo farmaco, l'acido acetilsalicilico, c'era appunto questo attacco che gli italiani avrebbero comprato a quantità enormi questo acido acetilsalicilico a prezzo troppo basso. Non è avvenuto assolutamente, il consumatore italiano, il cittadino italiano è molto consapevole e quindi consuma sempre nelle modalità giuste. Certo, il farmaco che serve, la quantità che serve, giustamente. Assolutamente questo fenomeno non è avvenuto. Anche poi, insomma, però, avere una grossa quantità di per sé non è che sia negativo, insomma, basta poi usarla in maniera corretta. In maniera corretta, poi comunque anche questi poi immagino avranno una scadenza, voglio dire, non è che si possono comprare grandi quantità per tenerle lì in uno scaffale giusto perché si è fatto un risparmio nell'acquisto. Tra l'altro, per quello che riguarda il primo esperimento, Tassinari mi sembra sia andato, nonostante le critiche iniziali, anche piuttosto bene, perché sono state vendute in un anno qualcosa come 200.000 confezioni di acetilsalicilico? Sì, in un anno da quando siamo partiti appunto nel maggio scorso ad oggi ne abbiamo vendute 400.000, quindi addirittura insomma avevo... L'obiettivo che abbiamo sul paracetamolo è di venderne 500.000, credo che sia giusto, sia un indirizzo giusto di liberalizzazione del nostro paese. Si citava prima gli Stati Uniti d'America, potrei citare l'Inghilterra, questo fenomeno di liberalizzazione è già ampiamente avvenuto e credo che il consumatore di quei paesi sia stato il primo beneficiario, oltre che l'economia di quei paesi. Certo, Tassinari, ci tolga un'altra curiosità su come viene prodotto questo farmaco, perché naturalmente io forse quando in un'altra occasione abbiamo presentato l'acido acetilsalicilico, non c'era soldi e dintorni, probabilmente lo abbiamo fatto a salvadanaio, ovviamente avevo un po' scherzato anche con voi dicendo non è che nei centri commerciali a marchio Coop troviamo il laboratorio farmaceutico accanto alla gastronomia. Qua c'è un percorso istituzionale molto ben dettagliato che vi porta anche ad ottenere l'autorizzazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. È un percorso complicato quello di produrre un farmaco con il vostro marchio? Sì, è complicato e lungo. Noi sicuramente siamo i primi a dire che l'uscita di un farmaco deve essere salvaguardata da tutte le garanzie possibili, quindi è chiaro che l'AIFA dà questa autorizzazione e fa bene a darlo quando ci sono tutte le condizioni. Però è vero che ci sono molti percorsi lunghi, ci sono degli ostacoli che sono venuti anche sul modo produttivo, ecco, quindi io credo che il nostro esempio sia un esempio che apre una strada che dovrebbe essere sicuramente più facilitata e più veloce. Tassinari, in questo periodo nella grande distribuzione è letteralmente un'esplosione di nuove iniziative per attirare e fidelizzare i clienti, e noi ne parliamo molto spesso, dai consulti medici ai centri benessere che troviamo nei grandi centri commerciali, l'estetica, il carburante venduto nei centri commerciali. Si può passare, questo accade peraltro anche proprio in un Ipercoop di Milano, alla consulenza di uno psicologo. Abbiamo presentato un'altra grande catena che presto lancerà delle polizze assicurative per la famiglia, incendio e furto. La grande distribuzione le tenta proprio tutte per dribblare la crisi. Sì, è il grande ruolo moderno che deve avere la distribuzione moderna anche in Italia, così come in altri paesi europei, negli Stati Uniti d'America. Non possiamo più essere solo dei venditori, mi passi il termine, di scatolette e di frutta e verdura e carni. Dobbiamo ampliare la nostra possibilità di offerta ai consumatori, soprattutto quando possiamo cambiare mercato, quando possiamo dare una possibilità ulteriore di servizio e di scelta, e soprattutto possiamo contenere fortemente i prezzi. Questo è avvenuto nei paesi più evoluti, credo che debba avvenire anche in Italia. Quindi noi distributori dobbiamo essere meno timidi quando ci sono queste aperture di liberalizzazione, andarci con forte convinzione. Noi ci siamo andati, abbiamo aperto 88 Coop Salute, perché credo che sia molto significativo per l'economia del nostro paese e per il nuovo ruolo che la distribuzione moderna in Italia deve avere, così come in altri paesi. Tassinari, questa la prendo come risposta alla domanda che avrei voluto farle adesso, non riusciamo invece a farghela, un commento sul disegno di legge Gaspari Tomassini che invece prevede di riportare al vaglio del governo il controllo delle farmacie sotto il controllo delle farmacie tutti i farmaci oggi venduti nelle parafarmacie, magari anche proprio istituite presso i centri commerciali, organizzate presso i centri commerciali. Non ce la facciamo, però ci ritorneremo senz'altro. Dopo il paracetamolo avete in mente anche di così produrre un terzo farmaco? Sì, noi abbiamo chiaramente un progetto industriale con altri progetti di principi attivi. Credo che se avremo la facilitazione di percorsi, che prima dicevo, di autorizzazione, ma anche di collaborazione col mondo produttivo, sicuramente la Coop sarà ben felice di vendere ai propri consumatori altri prodotti farmaceutici. Insomma, quindi un cantiere aperto. Grazie a Vincenzo Tassinari, Coop Italia, dal 15 giugno il paracetamolo nei supermercati Coop. Alessio. E Deborah sta già preparando la prossima puntata in attesa di sapere quale sarà il prossimo farmaco. C'è un ascoltatore, tra l'altro, domanda è arrivata o cose un po' tecniche per il dirigente che tu stavi con cui stavi parlando. Una cosa però ce la chiedono, ma state facendo pubblicità occulta? No. Chiariamo, no, ci mancherebbe altro. Insomma, sono le notizie che arrivano con queste liberalizzazioni che vanno avanti e infatti, cambiano il settore farmaceutico e dobbiamo sia utile far sapere al consumatore quello che succede, che magari se si trova questo farmaco su un bancone, uno scaffale appunto del supermercato, cos'è? Magari da dove arriva, cosa serve, ci mancherebbe altro. Perlomeno mi sento tranquilla da questo versante, Alessio, spero anche tu. Assolutamente. 8:27 minuti, sì, oggi invece alle 12. A Salvadanaio oggi parliamo del restyling della borsa italiana, perché dall'S&P MIB 40 arriva il FTSE MIB da lunedì prossimo, quindi insomma importato con l'integrazione da Londra, della borsa italiana direttamente da Londra. La borsa inglese, esatto. 8:33 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati con 24 Mattino. Ecco le notizie di questa mattina in primo piano. Ancora una volta il dossier Fiat Opel, oggi il supervertice con il cancelliere tedesco Angela Merkel, mentre General Motors va verso la bancarotta. Proprio oggi il cancelliere tornerà ad incontrare tutte le parti coinvolte, vedremo in serata forse come andrà a finire. E poi tre operai morti in Sardegna, oggi ci sarà uno sciopero di 8 ore. A quello che è emerso, i tre operai volevano aiutarsi l'uno con l'altro prima di morire purtroppo. Per quanto riguarda gli esteri, la Corea del Nord minaccia interventi militari contro la Corea del Sud. Ieri la decisione di Seul di aderire all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione, che ha lo scopo di interdire il trasferimento di tecnologie e armi di distruzione di massa, Pyongyang aveva fatto sapere che avrebbe considerato la scelta come una dichiarazione di guerra. E poi in Pakistan è salito ad oltre 30 morti il bilancio ancora provvisorio dell'attentato compiuto con una autobomba che stamani ha distrutto completamente una centrale di polizia a Lahore. E poi a Roma, che è invasa dai tifosi inglesi e spagnoli, come sappiamo, in attesa della sfida di Champions di questa sera, sono migliaia i tifosi del Barcellona e del Manchester, preoccupano soprattutto, come sappiamo, i 5.000 che sono rimasti senza biglietto, però al momento la situazione appare più che tranquilla. 349-238-6666. Vorrei riprendere la maglia rosa per dare una gioia alla mia gente. Il tifo sarà tutto per me, speriamo che basti. Queste le parole di Danilo Di Luca, che oggi cercherà l'affondo per appunto cercare di riprendersi la maglia rosa, abruzzese in Abruzzo. Oggi il giro, ma già ieri è passato per le strade dei luoghi terremotati. Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, allora iniziamo subito con l'aspetto sportivo, poi parleremo anche della situazione, come hai visto l'Aquila, in queste ore avremo anche il sindaco della città. Oggi la tappa dal punto di vista sportivo è davvero decisiva, una tappa secca, corta ma intensa. Quali sono, come la vedi Dario? Sì, esattamente, molto secca, sono 83 chilometri, quindi una botta e via, come si dice in gergo, e si parte da Chieti e si va verso il Blockhausen. Il Blockhausen è una salita tipica dell'Abruzzo, è stata lievemente tagliata nella parte alta perché c'erano un po' di settimane fa problemi di neve, adesso mi sa che col caldo di questi ultimi giorni la neve non è proprio il problema principale, però comunque è una salita che può provocare uno scossone alla classifica. Il problema è che Di Luca, che è il beniamino dei tifosi ovviamente, deve strappare la maglia rosa a Menchov, un russo che sta dominando in questo momento, che nessuno se l'aspettava, o almeno insomma chi magari non segue il ciclismo proprio da vicinissimo, però adesso forse non è così semplice portare via quei 30 secondi. Perché questo russo è in gamba, è uno che è bravo sia a salire che nelle cronometro, sa gestire bene la corsa. Ha 39 secondi, 40, 39 da Di Luca, però sono quel bottino, quel tesoretto che può essere molto importante. E del resto Dario, tu già all'inizio del giro, di giro multietnico, avevi parlato e proprio avevi messo gli occhi anche sul russo. Tra l'altro invece dal punto di vista trasporto e solidarietà, ieri c'è stata una bella pedalata sui luoghi del terremoto, so che c'è stato qualche disagio per il traffico perché non so se gli aquilani erano stati avvertiti, com'è andata? Tu c'eri? Guarda, disagio per il traffico, sai, forse sono quelle cose che noi non l'abbiamo quasi avvertito, nel senso che comunque c'era un senso di solennità, nel senso che insomma c'era questa pedalata di campioni del passato, c'era Muser, Bettini, Cipollini e tanti altri, Saronni, che hanno fatto 25 chilometri attraverso le zone terremotate, da San Gregorio a Onna, Paganica, Tempera e poi l'Aquila, dove c'è questo incessante vivaio di specialisti, di militari, volontari eccetera, e sono arrivati fino al centro Caritas di Pettino, dove qui c'è stata così una bel abbraccio, diciamo, tra questa gente, 80 famiglie che sono ancora in questo centro Caritas. E tra l'altro la cosa curiosa è che dietro di loro, dietro alle tende, ci sono queste palazzine che all'apparenza moderne, belle anche, discretamente conservate, che però sono in realtà inagibili, e questo dimostra anche come poi il terremoto abbia colpito dove non avrebbe dovuto colpire, perché comunque E credo che questo, da quello che ormai sono i racconti, sia la situazione proprio in generale, insomma, ha una facciata che sembra aver tenuto, all'interno invece soffitti crollati, palazzi inagibili e problemi naturalmente per tutti gli sfollati. Vogliamo sentire Angelo Zomenian, direttore del Giro, che proprio in questi momenti che tu ci hai raccontato ti ha detto la sua al tuo microfono. Sentiamo Zomenian. È una giornata particolare, abbiamo inteso sfruttare questo giorno di riposo coinvolgendo tutti coloro che hanno accettato di essere coinvolto sulla spinta della comandante Deledda e di chi della carovana è un po' l'anima. Abbiamo portato qualche minuto di felicità e di sorriso a dei bambini, a dei ragazzi, a dei giovani nella tendopoli, ma vogliamo andarcene non solo con questo, lasciando questo sorriso, ma lasciando anche un invito che vuole essere un messaggio forte, che quel che è stato e che tutti devono tornare alla propria quotidianità, perché i conti con la vita non possono fondarsi sicuramente con un debito contratto con il destino. Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, buongiorno anche a lei, l'abbiamo tirato giù dal letto, ma visto gli impegni naturalmente in questione sarà stato già sveglio chissà da quando. E, prima di parlare di cose anche più serie, insomma, della situazione, dei vostri appelli, del decreto, eccetera, ieri questa giornata, soddisfatti, siete riusciti, poi anche oggi insomma i fari saranno puntati sulle vostre zone, a calamitare un po' d'attenzione positiva, sindaco? Sì, sì, poi... Il giro, beh, purtroppo il giro per, anche per chi di noi ama molto il ciclismo, magari questo era un appuntamento, adesso non riusciamo a seguirlo come tante altre cose. Abbiamo le vite un po' sconvolte, però tifiamo chiaramente Danilo perché è abruzzese, quindi... Certo. Tutti i fans. Vediamo oggi in queste ultime pedalate se insomma su quegli strappi che ci sono riuscirà a rosicchiare qualche secondo a Menchov. Dario Ceccarelli, tu poi adesso appunto parliamo bene con il sindaco, però insomma ieri al seguito della carovana di ex campioni ti sei fatto un giro nelle zone del terremoto e hai raccolto insomma un po' di storie, sì. Un po' di voci, raccontaci un po'. Sì, è stato un giro nel giro, diciamo, nel senso una cosa particolare, perché come dicevo prima siamo stati in questo centro Caritas di Pettino, dove così c'erano queste 80 famiglie che quasi presidiavano, no? Perché avrebbero potuto anche andarsene altrove, ma è come un presidio vissuto dalla gente del quartiere per non abbandonare la precedente esistenza. E qui c'era anche, diciamo, non si può chiamarlo il capo perché suona un po' male, comunque è Don Dante, che è quello che coordina tutte le attività, la mensa eccetera, e con lui così abbiamo fatto due chiacchiere per avere così un'idea un po' più... Lo vogliamo sentire subito? Va bene. Dai, sentiamolo. Don Dante, oggi c'è il giro, domani? Domani continueremo a lottare come abbiamo fatto fino ad oggi, ormai sono giorni che lottiamo, sono mesi, abbiamo tanta speranza e soprattutto abbiamo tanta voglia di ricominciare, e abbiamo dentro anche la forza che ci è stata data da tanti amici, tante persone, tantissimi che sono venuti a dimostrarci la loro presenza, la loro solidarietà, la loro partecipazione, e oggi questa bellissima presenza del Giro d'Italia che veramente ci ha riempito di gioia. Il suo è un campo particolare perché Pettino è un centro relativamente nuovo, no? Abbiamo voluto che ci fosse qui un presidio perché qui la Protezione Civile non aveva previsto nessun campo, nessuna tendopoli. Però noi non potevamo abbandonare la zona. E allora abbiamo fatto questo campo per rimanere qua, e anche perché poi, a seguito di questa nostra scelta, nella nostra chiesa parrocchiale, che comunque è rimasta in piedi perché è di cemento armato, si è trasferita tutta la diocesi dell'Aquila a livello di operatività, dalla Caritas, persino la Caritas nazionale, e abbiamo magazzini per smistare versiti, cibo a tutte le zone per terremotate, a tutte le tendopoli. Quindi noi abbiamo 50 volontari che lavorano dalla mattina alla sera per assistere i nostri fratelli che sono nelle tendopoli e hanno bisogno dalle cose che possono sembrare più secondarie, come la crema solare in questi giorni per non bruciarsi sotto il sole, fino a un paio di pantaloni, a una gonna per la donna, a un piatto di riso, un pezzetto di pasta, una scatoletta di carne. Insomma, belle queste parole perché ci riportano alla realtà concreta, magari ci immaginiamo chissà che bisogni possono avere le persone colpite dal terremoto, poi basta anche una crema solare, una gonna, un qualcosa. Sindaco Massimo Cialente, noi abbiamo letto però nei giorni scorsi titoli dei giornali, la rabbia dei terremotati, andremo in piazza, il caldo si fa sentire, l'attesa per le decisioni del governo, era prevista credo una manifestazione che però concomitanza con l'approvazione del decreto è slittata, sabato c'è un sit-in, me lo conferma, che succede? Sì, sabato ci sarà un primo sit-in, ma è un po'... Vede, qui la nostra preoccupazione non è legata tanto a sì, siamo male, con, sotto le tende, il caldo e così via. Quello che sta un po' facendo crescere la rabbia soprattutto e sta creando un senso anche di abbandono è questa vicenda del decreto, che nell'ultimo passaggio al Senato, proprio in aula, ha subito delle modifiche e che ci porta oggi a pensare che la coperta sia corta, nel senso che non ci siano finanziamenti a sufficienza. Questo è il problema e noi temiamo a questo punto che la città non venga ricostruita, quindi tutta questa nostra voglia di ricominciare, di ripartire, anche tutta la dignità che abbiamo mostrato comincia a essere vanificata da questi aspetti. Noi siamo molto preoccupati, io sono molto preoccupato. Chiariamo anche un aspetto, sindaco, perché lei è del PD, ma insomma... No, io non sono del PD. Vabbè, insomma... Io in questo momento sono un sindaco di centro-sinistra, ma non ho partito, quindi... Benissimo, allora ha fatto bene a precisare, però insomma quello che volevo precisare io è che... Sono un sindaco di centro-sinistra. No, è che i sindaci sono tutti su questa linea, io ho letto da qualche parte 49, sì, 50 tutti, sindaci, centrodestra, centrosinistra, qua non è questione politica, è proprio una questione di fondi, di risorse. Entriamo nel dettaglio, cos'è che nel decreto... Ieri abbiamo letto Tremonti che ha detto se ci vogliono più risorse ci saranno. Cos'è che manca all'appello? Guardi, glielo dico subito. Noi quello che abbiamo chiesto sin dal primo minuto era quello di poter ricostruire. Adesso nel decreto è comparso e verranno ricostruite solo le case dei residenti, il che vuol dire che noi non avremo, come dirle, la possibilità di ricostruire la città, perché tra l'altro per come è organizzata la città, per come si vive la città, questa città-territorio, molte delle persone sì, venivano qui a... vivevano all'Aquila, ma magari avevano una residenza in un altro paese vicino. Avevamo fatto la scelta dei parchi, quindi di questa grande difesa del territorio, affidando il territorio di fatto ai parchi, che più delle volte hanno dei commissari, pur di sviluppare un tipo di turismo residenziale. A questo punto verrà vanificato tutto, soprattutto ai danni dei più piccoli comuni. Questo è il primo aspetto. Poi l'altro aspetto che fa paura è che la ricostruzione è tutto il patrimonio culturale della città. Lei pensa che noi complessivamente solo nei borghi abbiamo circa 1800 edifici tutelati dalla sovrintendenza. Una stima direi ottimistica parla di circa 3 miliardi per la ricostruzione, anche certo, negli anni. E attualmente noi disponiamo di... credo ci siano 19 milioni nel fondo del ministero e 50 milioni che dovrebbe mettere Bertolaso. Insomma, quindi i conti, a questo punto lei capisce che i conti non tornano, di cifre assolutamente ridicole, ordini di grandezza che non collimano. Grazie anche al sindaco, noi dobbiamo fermarci qua, per forza non abbiamo molto spazio in questa mattina. Grazie Massimo Cialente. Insomma, in bocca al lupo per tutto. Naturalmente, insomma, il suo messaggio è chiaro: va bene ricostruire la città dei residenti, però la città è anche altro, è il patrimonio culturale, sono le abitazioni dei non residenti. Quindi tutto questo servirà a ricreare l'Aquila com'era prima del terremoto. Grazie anche a Dario Ceccarelli. Sono le 8.50, cari ascoltatori, ben ritrovati. Dicevamo, Facebook, per chi non lo conosce, ma saranno sicuramente in molti quelli che non ci sono ancora imbattuti, è un luogo della rete, di internet, dove ci sono migliaia, forse nel mondo milioni di persone, di iscritti collegati tra di loro, che possono mettere in comune tutto ciò che è virtuale, dati anagrafici, commenti, foto personali, iniziative, si ritrovano vecchi amici, compagni di scuola, ex fidanzati, spariti chissà dove nel passato, basta un click e davvero si può entrare velocemente in contatto. Naturale che una tecnologia come questa stia spopolando, e siccome molti di noi trascorrono, io sono sicuramente uno di quelli, sempre più tempo della loro parte di lavoro di fronte a un computer, ecco che la tentazione si fa avanti in ogni momento: controllare se c'è un nuovo iscritto, un amico che ha messo un commento, leggere le frasi e così via. Tutto tempo, dicono alcuni, sottratto al dovere e al lavoro, fino a diventare un problema per la produttività del lavoro stesso. È così? Elio De Anna, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioamici ascoltatori. Elio De Anna, ora prima di tutto presentiamo chi è, perché fare a lei questa domanda? Perché la domanda che ci siamo fatti, se la sono fatta in molti, voi però della regione Friuli Venezia Giulia avete dato già una risposta, lei è l'assessore regionale al personale, e siete stati tra i primi a intervenire in questo senso, però vietando, e questa è la notizia, in qualche modo l'uso di Facebook, adesso ci racconterà come ai vostri dipendenti, però io le vorrei chiedere una cosa prima: come avete fatto ad arrivare a questa valutazione, a sapere che l'uso della rete così limitava la produttività? Avevate qualcuno appostato alle spalle dei dipendenti, delle spie? Allora, per prima cosa vorrei dire che il motivo che ha mosso l'azione di oscurare Facebook ai dipendenti regionali, quindi, muove da tre considerazioni. Il primo, noi abbiamo una società in house, come si suol dire, di proprietà 100% della regione, che è in Siel, che è responsabile del controllo dei dati, soprattutto dei dati sensibili, che poi rispondono alla direzione del personale dell'organizzazione di cui io sono assessore. E sono emerse cose, sì. Immagino. Noi possiamo sapere quanti sono gli accessi, ma non nel senso del controllo. Il tipo di navigazione. Sì, il tipo, certo, di navigazione. Quante autovetture entrano in un casello autostradale e a che punto escono? Evidentemente non possiamo sapere chi sono le persone e quali sono le autovetture, perché questo non lo permette la legge, perché sarebbe un controllo, come diceva lei prima. Però la quantità sì. La quantità. E questo vi ha preoccupato. E questo era un dato importante. La seconda considerazione è che Facebook, essendo, come ha detto lei, un social network, non è uno strumento di lavoro che sia dimostrabile, nel senso che aumenti l'efficienza, l'efficacia dell'azione amministrativa del pubblico dipendente. Se lei è su Facebook, evidentemente, come diceva prima, non può fare un altro, certo, tipo di lavoro. Ma quello che ha indotto il sottoscritto e il direttore centrale a prendere questa decisione è stato soprattutto la gestione della sicurezza dei dati, nel senso che abbiamo messo al riparo la regione, quindi il sistema, da possibili attacchi che io chiamo, tra virgolette, di pirateria informatica. Ecco, infatti, che tipo di intervento avete fatto? Perché abbiamo letto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, tra l'altro questa è una campagna lanciata anche dal ministro Brunetta, in parte voi l'avete anticipata, si parla di problemi di sicurezza, di vietare Facebook, altri hanno vietato altre cose. Voi che cosa esattamente avete vietato? Noi abbiamo semplicemente impedito l'accesso attraverso questo sistema selettivo non solo di Facebook, ma di tutti i social network, pensando in un secondo tempo di capire quali servizi o quali persone inerenti alla macchina organizzativa e amministrativa, politico-amministrativa della regione, teoricamente o anche praticamente avrebbero potuto trarre vantaggio da questo collegamento. Senta, le faccio... È un problema che affrontiamo subito dopo. Allora, il problema di fondo è... Lei avrà letto, anzi gli amici radioascoltatori avranno seguito quel caso di un'infermiera di Udine che poi ha messo in rete delle foto personali, dalle quali oltretutto si traeva immagini di medici, ma soprattutto di pazienti intubati. Allora, il dato di fondo è questo: quando lei mette un dato su Facebook, non è più titolare della sicurezza di questo dato, e quindi io non parto dall'idea che la notizia venga messa coscientemente, può essere anche una cosa ingenua. Lei non ne fa un discorso di cattiva intenzione, ma di effetti da questo punto di vista. Però io una domanda gliela devo fare: come hanno reagito i dipendenti? E tra l'altro, domanda ancora più cattivella, lei è un dirigente naturalmente della regione, lei i dirigenti lo possono ancora usare Facebook? Per voi valgono gli stessi divieti? Scusi, io sono un assessore, quindi rappresento la parte politica. Allora, evidentemente il mondo sindacale ha reagito, secondo me, con una violenza di retroguardia. Abbiamo 30 secondi per chiudere, glielo dico. Pensando alla censura, ma in realtà, vede, se io oggi riattivassi Facebook alla politica, sa come reagirebbe la gente? Ecco, ancora una volta, la casta della politica. Quindi lei non lo guarda. E, insomma, i dipendenti immagino che non saranno contentissimi, però di questo purtroppo non possiamo parlare ora, anche se avremmo voluto farlo. Io ringrazio Elio De Anna anche per lo spirito in cui ha partecipato, assessore regionale al personale del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo fermarci qua, 8:56 minuti. Grazie anche a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Rucella in regia come ogni mattina. 24 Mattino torna domani, e adesso la parola prima al GR, poi a Giuliano Ferrara. We'll be right back.